Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Non so, mi sembra di essere un po' oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, al cospetto, a volte sembra un luogo comune, frase fatta, di una leggenda, però non sono l'unica a pensarlo così, anzi, persino la critica giapponese anni fa lo definì uno dei 10, con tutti i milioni di musicisti che ci sono, uno dei 10 migliori musicisti al mondo. Poi ci rivelerà com'è che... Toletri di sake mi è costato... Quindi insomma ho dovuto corrompere masse intere, sì. Senti, ma prima di rivelare chi è questa leggenda della musica italiana e non solo, come ti definiresti in un identikit di 3 aggettivi? Allora, sto cercando una sintesi tra coraggioso e avventato. Non riesco a trovare un aggettivo lì in mezzo, non so, avventoso. Carino, avventoso, mettiamo avventoso. Ecco. Sì. Poi... diciamo, dovendo scegliere fra gli aggettivi, scegliendo fra i pregi, visto che per il momento non sono obbligato a scegliere fra i difetti, se non lì altro che 3, potrei dire comunicativo. Beh, nel tuo mestiere, se non lo fossi, insomma, diciamo che sarebbe rimasto tutto, sì, che però ha a che fare, perché anche lì diciamo che ho la fortuna di essere un buon partner di lavoro con le persone con cui lavoro, quindi sì, forse comunicativo è... Comunicativo, va bene. Ci piace. E un terzo... Fortunato. Io apprezzo sempre moltissimo, caro Mauro Pagani, chi si ritiene fortunato, perché non sono moltissime le persone che arrivano a certi livelli e che riconoscono che comunque ci vuole anche ovviamente la buona sorte, no? Oltre al talento, oltre ad aver fatto le scelte giuste, l'intelligenza, tutto quello che vuoi, la bravura, le capacità, un certo charme, il carisma... Però se non si ha anche l'aiuto un po' della fortuna, scherzo, nella vita... Soprattutto se si è avuto la fortuna di vivere un po' a lungo, non si può non avere incontrato tanta gente di talento davvero superiore al tuo, perché nella vita succede tutti i giorni, no? Anche questo non lo sento più o meno mai, ecco, una cosa del genere che mi dici. Soprattutto nel mio lavoro, sai, sì, tanta gente brava c'è, davvero. Tanto solo diciamolo che... subito per i pochissimi che non lo sapessero, che Mauro Pagani, grande musicista e compositore, fondatore della PFM, tra le sue tante prestigiose collaborazioni, a proposito di questa facilità, no, nel collaborare, nel lavoro di squadra, come si dice, della sua comunicatività, il più grande dei personaggi che ha avuto accanto è Fabrizio De André, naturalmente. In che cosa consiste la fortuna? Spesso la fortuna consiste naturalmente nel trovarsi nel posto giusto al momento giusto, ma soprattutto al momento giusto. Se prendo per esempio l'incontro mio con i 4 musicisti con cui ho avuto la fortuna di fondare la PFM, loro erano già un quartetto affermato, affiatato, suonavano insieme, eccetera. Però ci siamo incontrati nel momento giusto. Se ci fossimo incontrati un anno o due prima o 2 anni dopo non sarebbe successo niente, probabilmente. La stessa cosa del mio incontro con Fabrizio. Mi sono incontrato quando io ero pronto... Metà anni 80, no? 81 abbiamo cominciato. All'inizio. Io ero pronto a tradurre in musica tutto il lavoro di curiosa ricerca che avevo fatto nella musica del mondo. Da ladro. Tu sei uno sperimentatore, un ladro. Sono un ladro... Un pescatore forse. Sì, un ladro gentiluomo, se visto che poi posso scegliere gli aggettivi. Però mi aggiro fra gli oggetti e per gola, no? per amore del bello, prendo e cerco di fare mie le cose con cui vengo a contatto, che mi piacciono, che mi appassionano. Tanti ingredienti, ma poi il piatto è tuo, insomma, no? Però dicevo, per il mio incontro con Fabrizio, lavoravo sul materiale mediterraneo già da 5-6 anni, spinto e ispirato da molti musicisti, soprattutto dell'area milanese, romana, che lavoravano su quel materiale da tanto tempo. Quindi verso la musica popolare in particolare, sì, il tuo interesse. E dopo i 5 anni meravigliosi, anzi 7, con la PFM meravigliosa. Dal 1970 al 1977, no? Però già dal 75 avevo cominciato a prendere questa scuffia carnale per la musica del mondo. E quando ho incontrato Fabrizio, io ero pronto per tradurre queste ricerche sconclusionate in qualcosa di mio. E lui aveva concluso un ciclo ed era pronto e ricettivo a fare un passo nuovo, coraggiosissimo per lui, perché decidere di fare un disco come Crosa de Ma... Come Crosa de Ma, in genovese, sì. Uno dice, ma chi lo deve comprare un disco così? Esatto, cioè uno famoso come lui per i suoi testi, che decide di fare un disco spesso incomprensibile anche a Genova, insomma ci desse qualcosa di magico nell'aria. Una scintilla, esatto, sì. Vero, un'alchimia straordinaria. E non per niente poi Croesus de Mat, questo atto coraggiosissimo di Mauro Pagani insieme a Fabrizio De André, è stato votato dalla critica come il miglior disco italiano degli anni Ottanta, e addirittura un musicista e compositore internazionale come David Byrne l'ha messo tra i 10 dischi più importanti del decennio degli anni Ottanta in tutto il mondo. Poi quando fa le cose succede che abbiano così risonanza, no? E rimane sempre un po' stupefatto, perché quando le fai... ci credi, ma non fino a quel sì, punto, esatto, forse. Insomma, no? Cioè, non è che come fai le cose c'è l'eco, c'è già l'applauso incorporato. È garantito. Esatto. Però evidentemente è stato un lavoro dove siamo riusciti a trovare un equilibrio in qualche modo magico, no? Mi piace lavorare con gli altri, perché è una cosa che per esempio mi piaceva molto anche a Fabrizio. Lui in realtà non ha mai fatto un lavoro da solo, e ogni due dischi cambiava partner, proprio perché in qualche modo... Si diceva, io da vecchio vampiro ho bisogno di sangue giovane. Succhiare energia, che poi con lui ha fatto anche Le Nuvole. Esatto, dopo, sì. Dopo. Che è stato anche quello è stata un'avventura molto diversa da Croesus de Mat, perché è stato un disco più pensato. Croesus de Mat è stato molto istintivo. Io lì ero un torrente in piena, e lui anche. Era la prima volta che scriveva in genovese, e finalmente si era liberato dall'italiano, da quelle maledette rime baciate che tanto gli piacevano, ma tanto lo facevano impazzire, no? Mesi a cambiare una parola. Invece finalmente la libertà di flusso di coscienza, poter stiracchiare le parole. Invece Le Nuvole, sai, Croesus de Mat ha avuto questo successo così forte che Fabrizio dopo un po' l'ha sentito, no? Le Nuvole 1990? Sì, uscito nel 90, ben registrato nell'89. Per un paio d'anni ci siamo chiesti cosa fare dopo Croesus de Mat. Lui voleva fare Croesus de Mat numero due, perché questo giochetto del genovese gli era piaciuto tanto. Invece io, che apparentemente avrei dovuto essere quello che lo spingeva sul terreno a duplicare, a me congeniale, invece io lo volevo obbligare a fare un disco di De André, perché in realtà era almeno una quindicina d'anni che lui non faceva il De André, quello classico, sì, quello di Via del Campo, quello di Bocca di Rosa, quello di... E io proprio, la Guerra di Piero. Sì, cioè. io voglio un disco così, io da fan di De André, no? In realtà poi abbiamo raggiunto un compromesso, perché è un disco a due facce quello, no? Dove ci sono dentro tutte e due le cose. Però abbiamo passato due anni a chiacchierare di cosa parlare. Poi insomma abbiamo fatto questo disco ottocentesco in qualche modo, dove ci siamo molto divertiti e dove ci sono anche un paio di pezzi, in particolare ce n'è uno che io amo tantissimo, che si chiama La Domenica delle Salme, che è stato l'ultimo pezzo che abbiamo scritto, ed è proprio un pezzo, è così moderno che se tu lo leggi sembra scritto benissimo l'altro ieri per oggi. Per oggi. Storielle. Storiacce. Ascoltando la voce narrante del mio ospite oggi, esimio ospite Mauro Pagani, sono Roberta Giordano, sempre con voi qui a Storielle. Mauro Pagani, che è grande musicista, compositore, ricordavo che la critica giapponese lo definì uno dei migliori, dei 10 migliori di nuovo, musicisti. Di nuovo, vuoi rigirare il coltello nella piaga? No, allora, no, vogliamo spiegare. Sì, io spero tu l'abbia incorniciata. No, mi metti in imbarazzo. Quando quelli della Rizzoli hanno deciso di metterla dietro al libro, ho litigato una settimana per cercare di farla togliere. No, perché, no, perché bisogna essere modesti quando qualcuno ti riconosce, no, una cosa così, no, importante. Però perché in realtà, allora, la storiella è questa, che quando facciamo la tournée in Giappone con la PFM, era 75 comunque, dopo... Che ne avete fatte in giro per il mondo, in quei 7 anni ne avete combinate con la sì, PFM? Sì, ma anche lì, sai, avventura meravigliosa, tipo ti metti insieme con questi qua, primo disco che facciamo, primo in classifica. Ma poi è andato anche negli Stati Uniti. E dopo abbiamo pubblicato in Inghilterra, che per noi era... Incredibile questa cosa. Subito dopo gli Stati Uniti, e poi le tournée, cioè, festival da 200.000 persone. Che agli italiani non è che succedesse proprio di frequenza. Quindi, non era mai successo, e a tutt'oggi nessun gruppo rock italiano è stato preso nel circuito major americano. Ci sono gli After Hour, che sono un gruppo bravissimo, che sono anni che fanno tournée in America, ma comunque fanno il circuito dei club, per carità. Eccetera. Però insomma, per dire un po' l'unicità di quell'avventura, certo, a proposito della fortuna di cui si parlava prima. Comunque siamo andati in Giappone, già avevamo un seguito buono, e alla fine di quell'anno questa rivista giapponese che si chiamava Music Life, che era... il Ciao 2001 del Giappone, però siccome eravamo in Giappone e non in Italia, invece di essere un fascicoletto così era già alto come una guida telefonica. E già c'era questa cosa buffa che si leggeva dal fondo, per cui poi, allora io li leggerei agevolmente perché leggo sempre dal fondo. E anch'io devo dire. E comunque hanno fatto questo pop poll, questo referendum tra generico tra i musicisti internazionali del resto del mondo più interessanti, e io ero sesto, metti. E su 10? Sì, no, ma ero sesto, ma tipo Mick Jagger era 14esimo. Era molto buffo, era molto buffo. Per cui sai, per cui già io definirei, comincerei a scrivere tra i musicisti più interessanti della scena rock internazionale, perché del mondo così tu ci metti dentro, non so, cioè Muti, hai capito? Non lo so, Bernstein, però, cioè, per favore. Insomma. Teniamocela così con me, no? Ah, vabbè, insomma, che... sì. E poi comunque dicevamo prima di Cruza de Ma, che hai fatto insieme a Fabrizio De André, che la critica l'ha votato il miglior disco italiano degli anni Ottanta, e poi David Byrne l'ha messo tra i 10 dischi più importanti del decennio in tutto il mondo, il 1980. In qualche modo quel disco, è stato molto avanti nei tempi, perché... Se tu pensi che noi abbiamo registrato nell'83 e tutti lo considerano il primo disco di world music italiano, io non sono d'accordo, poi casomai ne parliamo. Comunque Peter Gabriel ha fondato la Real World nell'88, quindi in realtà l'attenzione del mondo inglese, che pure era all'avanguardia nei confronti delle contaminazioni con la musica del mondo, è venuto già qualche bel po' di anni dopo. Però io ero figlio di una tradizione italiana che, per stupidità della nostra industria discografica, non è stata la nostra bandiera nel mondo, perché la Nuova Compagnia di Canto Popolare è del 1972, il Canzoniere del Lazio è del 1973, gli Aria sono del 1973. Quindi in realtà c'erano già ottimi esempi. E noi avevamo avuto questo legame molto forte con la cultura popolare, spinti già dagli anni 50, a fine anni 50, dai Dischi del Sole, da questa volontà proprio di raccogliere musica popolare, no? Che è sempre stata una bandiera della sinistra allora, in qualche modo, quindi c'erano fior di intellettuali che lavoravano su questa cosa. Cruza de Ma è buon ultimo, stranamente, di una cosa che aveva provato a prendere il volo negli anni 70, che era stata tarpata nel 77-78 definitivamente. E poi, perché Cruza de Ma secondo me non è un disco di world music? Perché in realtà non ci sono musicisti del mondo. Cioè, quel disco l'abbiamo fatto io e Fabrizio, quattro amici musicisti, però tutti gli strumenti etnici li ho suonati io. Altri non sapevamo come si chiamavano e li ho imitati, ricostruendo. Non so, ci sono questo episodio famoso che ho raccontato altre volte, ma che è buffo. Cioè, a un certo punto io sentivo questi strumenti a corda singola, molto strani, nel Nord Africa, eccetera. Non sapevo come fare a ricostruirli. Allora mi sono messo a suonare il violino col plettro, no? E poi sulla copertina, in questo disco, con questo sapore, non sapevamo come definirli. Allora ci siamo inventati questo nome di strumento, che era Ndelele. Ndelele. Sì. E allora l'abbiamo messo in copertina, e per anni è stata questa cosa, anche uscivano le recensioni, anche hanno usato l'uso raffinato dell'Ndelele. E a quel punto noi non abbiamo avuto più coraggio di smentire la faccenda. Per cui in realtà Cruza de Ma è un romanzo d'avventura. Assolutamente immaginato nel chiuso di una stanza di due che immaginavano molto e viaggiavano poco. Hai citato il termine romanzo, e effettivamente tu, grande musicista, compositore, arrangiatore, abbiamo detto, e collaboratore di Fabrizio De André per una decina d'anni, hai appena pubblicato un romanzo, quindi adesso ti sei sperimentato anche in questo ambito. Hai sentito la foto di gruppo con chitarrista. Hai citato anche, abbiamo parlato molto degli anni 70, è ambientato soprattutto in quegli anni, no? Questa storia del chitarrista Sonny, pieno di speranze, in mezzo a quegli anni inquieti, ma molto fibrillanti, molto fervidi, molto entusiastici. Poi dopo, vabbè, qualche delusione che è seguita dopo, grandi anzi. E io avevo due o tre voglie, che erano quelle di raccontare un po' più compiutamente la magia di un periodo, di un decennio, che è stato certo faticoso, come dicevi tu, è stato pieno di contraddizioni, e all'interno del quale purtroppo abbiamo fatto i conti con alcuni misunderstanding che avevamo sul come gestire la nostra voglia di cambiare il mondo. No? Però in realtà sono anni che dovrebbero essere ricordati per l'enorme importanza che hanno avuto per la formazione dell'essenza veramente della cultura giovanile italiana degli ultimi 30-40 anni, per la loro importanza per la storia del rock, perché negli anni 70 nel mondo sono uscite delle musiche meravigliose, per la qualità di vita che siamo riusciti ad avere, per la capacità di sognare che abbiamo avuto e per la capacità che c'era allora di concepire sogni il cui soggetto era la parola noi e non la parola io. Tu, Mauro Pagani, rispetto a quegli anni, al ragazzo che eri in quegli anni, che eri già appunto la rockstar che dicevamo, ad oggi ti ritieni uno che semplicemente in modo proprio fisiologico è maturato, è cresciuto, è rimasto come allora, con i sogni di allora, con l'entusiasmo di allora, lo spirito di allora? Che differenza ti senti dentro? Al di là che ognuno con la propria vita, i propri percorsi, cose belle, cose anche molto brutte, no? Cambia, però. Ma sai, il primo aggettivo che avevo scelto nella descrizione, questo miscuglio fra avventato e coraggioso, avventoso. Quella me la porto di carattere, no? Io sono diventato adulto nel corso di quegli anni, grazie, a proposito poi degli incontri fortunati, non devo mai omettere una ragazza che ho conosciuto, che poi ho sposato, con la quale ho avuto una storia lunga, una quindicina d'anni, che mi ha decisamente cambiato, perché era una persona speciale. E ci siamo incontrati casualmente una sera al bar Giamaica. A Milano. E naturalmente, come nei peggiori feuilleton o filmacci di quarta, io facevo il filo alla sua amica, che era quella seduta di fianco. No? Poi in realtà abbiamo cominciato a parlare, eccetera, eccetera. Sono finito a casa sua e lei abitava in questa casa meravigliosa, che poi in qualche modo racconto nel libro. C'era questa casa dove vivevano 7-8 persone. E sono andato prima un giorno, poi due, eccetera. Poi un certo mi sono stabilito lì e non me ne sono più andato. Ma perché era meraviglioso star lì con lei, ma con tutta quella gente. Ed era così bello che io dopo 2 anni mi sono sposato con questa ragazza, ma abbiamo continuato a vivere lì. E la cosa buffa è che io nel frattempo facevo anche la rockstar di mestiere, no? Però vivevo in questa situazione strana, che per me è stata fantastica, perché le persone che vivevano in quella casa erano persone speciali, e lei era una persona speciale, una che a un certo punto, io ero veramente un ragazzotto di paese, di quelli scappati di casa per suonare, con tutti i sogni giovanilisti che si portava dietro questa cosa, con davvero poca coscienza delle ragioni vere che muovono il mondo e dei problemi veri che scuotono il mondo. Per un po' lei mi ha lasciato giocare questa cosa qui, poi un bel giorno mi ha preso e mi ha detto: oh, ma ti vuoi dare una svegliata? E l'ha fatto naturalmente in un modo, da un lato femminile, dall'altro femminista, per usare i termini di allora, però con un atteggiamento molto preciso e molto profondo. Siccome era una persona speciale, mi ha abituato e forzato a provare sempre a chiedere il meglio da me, no? a cercare di mediare il meno possibile e soprattutto a non raccontarmela. È stata una persona che mi ha dato molto, proprio una bella avventura. Ma vivi ancora in Sardegna, a Milano? No, io vivo a Milano. Sono andato a abitare in Liguria per un po', sono andato anche in Sardegna un po' con lei, ma non ho mai vissuto. Il mio polo è sempre stato a Milano. Io sono bresciano d'origine. Ma di Chiari, no? Di Chiari, sì. Ma sono venuto a Milano per l'università e da lì non mi sono più mosso. Tu hai una figlia? Ho una figlia e un figlio. Un figlio. Che rapporto ha Mauro Pagani con... Beh, sono perdutamente innamorato dei miei figli, naturalmente. Poi da bravo padre, la femmina è più grande e è in un'età, ha quasi 17 anni adesso. Grandissimo. No, sono un primipero attempato, come si usa dire. E allora li sto osservando crescere. È un atteggiamento naturalmente diverso tra il maschio e la femmina, no? Perché i meccanismi del maschio un po' li conosco. Io poi non ho avuto sorelle, perché sono figlio unico, non ho avuto neanche cugini che ho frequentato, perché mia mamma era figlia unica, i fratelli di mio padre vivevano da un'altra parte, per cui sono abbastanza curioso del mondo femminile nel suo svilupparsi. E poi, come ti dicevo, la presenza femminile è stata così importante nella mia vita, no? Che in realtà faccio finta di niente, non di niente, ma la spio, no? La guardo, la guardo crescere, incantato devo dire, ma... Così guardo il maschio e rivedo tutti una serie di meccanismi miei e naturalmente non posso non considerare quanto noi siamo lenti e tardi rispetto alle femmine. E poi quando ero ragazzo, figurati, andavo a scuola, già ero uno che dimostrava molto meno della sua età, no? Già le ragazze a scuola difficilmente hanno rapporti o relazioni coi coetanei, cerca sempre quelli più grandi, figurati con quelli che ne dimostrano meno anni, per cui in realtà da questo punto di vista è stata un'adolescenza di privazioni. Poi insomma, per fortuna, sì, per fare la rockstar aiuta. Allora, Mauro Pagani, tu sei un grandissimo musicista, compositore, produttore, hai fondato la PFM, hai avuto anni splendidi, continui ad averne, hai incontrato Fabrizio De André, hai scritto fra le mille cose anche colonne sonore per Salvatores, insomma ne hai fatte tante di cose, hai pubblicato questo libro, questo romanzo, il tuo primo romanzo, Foto di gruppo con chitarrista, diciamo il primo romanzo, perché chissà cosa seguirà ancora nella vita di Mauro Pagani. Ma se tu dovessi dire, ecco, questa che tu vedi qua è la lampada di Aladino. Un sogno grande, ancora ce ne avrai sicuramente tanti, ma uno che ti viene in mente in questo momento? Guarda, sembra un discorso buonista, ma non lo è per niente. Mi piacerebbe, cioè salto tutte le varie, mi piacerebbe vedere un mondo migliore di questo, mi piacerebbe vedere schiattare il tizio o il tavolo. Eviterò. Cioè, si hanno anche questi esatto, desideri. Eviterò. Però c'è una cosa che credo profondamente, e questo rientra in questo mio rapporto mistico, laico con la vita, e credo che a sorteggio nel branco umano vengano distribuite in qualche modo caratteristiche in ognuno di noi. Una delle poche cose in cui sono d'accordo con cattolici praticanti è che sprecare i doni del buon Dio è peccato mortale. Quello che io mi augurerei come regalo più grande nella mia vita è di riuscire a onorare i doni che ho avuto. Sembra a questo punto tu, Mauro Pagani, della tua vita, che tu sia già a buon punto. Ti auguriamo di andare naturalmente anche oltre. Grazie Mauro. Grazie, la tua ospitalità, grazie.